gli alieni arrivarono puntuali. Nella piazza del paese le signore si coprivano con i giornali, per paura del freddo e dei lupi mannari. Gli alieni arrivarono puntuali. D'altronde su Marte, a chi ritarda gli tagliano le mani. Gli tagliano tutte le dita delle mani. E la signora davanti a me disse tutta preoccupata: vogliono fare la guerra, ho portato il fucile. Vogliono fare la pace, ormai ho portato il fucile. E il bambino davanti a me disse tutto rilassato: vogliono fare la lotta, ho portato il mio cane, che morde così tanto che non sa abbaiare. Gli alieni arrivarono dall'alto, ma così in alto noi non ci possiamo andare. Così ci rimasero un poco sui coglioni, li spingemmo via a pugni, calci e tuoni. Gli alieni arrivarono dall'alto, ma così in alto noi non ci sappiamo andare. Così, anche se ci volevano solo vedere, li mandammo via a calci nel